Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Pochissimi minuti dopo le 20.30, rieccoci qui. Benvenuti e ritrovati con Radio Cooperativa e il sottoscritto Gilles Facchinelli. Allora, questa sera ci ritroviamo per la terza puntata di Rock Wave Live, Io mi racconto. Allora, intanto io direi di passare al nostro primo graditissimo ospite. Iniziamo a dare spazio alla musica. E do il benvenuto a Mattia Di Bernardo. Ciao Mattia, ci sei? Buonasera a tutti, ci sono. Eccoti qua, ciao Mattia. Allora, tutto ciao. Bene intanto? Tutto benone, tu come stai? Bene, bene, bene. Poi quando sono qui in radio che posso parlare con voi di musica e far ascoltare, condividere la vostra musica con gli ascoltatori, si sta ancora meglio. Mattia, diciamo che tu per il momento hai fatto un solo inedito, però Mattia, prima di addentrarci un po' nella musica, vuoi parlarci un po' di te? Mettiamoci sempre dalla parte dell'ascoltatore che non ti conosce e vuol sapere qualcosa da Mattia. Sì, allora io sono Mattia Di Bernardo, vengo da Rimini e ho 27 anni, studio musica e canto da quando sono piccolissimo. E se posso raccontare un piccolo aneddoto. Ma certo, devi. Io prima di avere ricordi, avevo 3-4 anni, nelle sagre di paese, i miei genitori mi portavano nelle feste e dicevano che io andavo a cantare sui palchi, così, andavo e mi infilavo sui palchi. Quindi penso che sia un qualcosa, la musica, che sia nata proprio con me. Partiamo dal 10 ottobre 2018, è una data un po' particolare per te, perché? Sì, è una data molto importante perché ho dato vita e è uscito il mio brano inedito, neanche una canzone, sugli store iTunes e Spotify. È uscito appunto il mio primo inedito ed è per me un piccolo grande traguardo che appunto volevo condividere con più persone possibili. Ho avuto un riscontro molto molto positivo sia su Instagram che su Facebook, che mi hanno scritto tantissime persone sparse da tutta Italia. Non pensavo neppure io di avere comunque così tanti risposte positive da parte delle persone in qualunque fascia d'età, veramente dai più giovani, dai 12-13 anni fino anche a persone di 60 anni, certo. Quindi mi ha spiazzato in maniera positiva tutto ciò. Certo, e dimmi un po', Mattia, e cos'è che ti ha spinto a fare questo tuo primo inedito? Cosa facevi prima? Facevi cover? Cantavi solo per conto tuo? Allora, io ho sempre cantato, suonato e avevo fatto anche cover, solo che non avevo mai, come dire, preso proprio in considerazione la cosa seria di farla. Poi avevo tanti inediti e ho detto proviamo a registrare questo e vediamo come esce fuori. Alla fine è uscito fuori molto bene e poi ho anche pensato tra me e me, alla fine se faccio solamente cover sarò sempre solamente la copia di qualcun altro, per quanto bravo possa essere, no? Certo. Quindi io voglio dare nel mio piccolo comunque il contributo alla musica italiana, questo è il mio sogno, certo. Sarebbe contribuire a dare un pezzo di me alla musica italiana. Certo. Anche il gruppo che avremo dopo, Le Biciclette Volanti, anche loro hanno iniziato, dopo ne parleremo, a far cover e poi a un certo punto anche loro, probabilmente spinti dalle stesse motivazioni, hanno voluto cambiare. Anche se, Mattia, diciamo che far delle cover, per quanto chi le possa criticare, però abbiamo anche delle grandissime big della canzone italiana che fanno cover, addirittura fanno dei CD interi di cover, quindi è vero. Saperli cantare è sempre un bel vantaggio, dà sempre modo di sapere. Sì. Parlo della Mannoia, parlo anche di Elisa, ho sentito che ha fatto delle cover. Anche Giorgia, che ha fatto l'ultimo di Jovanotti, sono delle cover straordinarie, bellissime. Sì, no, io dico che è vero, infatti reinterpretare una cover, magari se lo fa un big è già diverso rispetto magari a una, come me, una persona magari sconosciuta, però io penso che alla fine tutti si approcciano alle cover, all'inizio della, quando si approcciano al canto, perché è l'unico modo per poter comunicare, se no non c'è altra maniera, qualcuno da qualche parte deve partire, poi dopo un po' senti proprio l'esigenza di dover comunque comunicare un pezzo di te agli altri. Certo. Chi lo fa prima, cioè chi lo fa dopo, però a un certo punto secondo me c'è questa necessità proprio noi dentro artisti che sentiamo. Certo. Io direi allora, Mattia, di entrare un po' nel tuo inedito, che abbiamo messo un po' di curiosità, però adesso dobbiamo far sentire anche come canti. Questo inedito che lo facciamo sentire adesso e lo faremo sentire alla fine della tua telefonata, ok? Sì. Parlaci un po' di Neanche una canzone, perché così si chiama questo brano. Sì, si chiama Neanche una canzone, parla molto semplicemente di un amore che ho provato e spero di riprovare. E all'interno di queste mie parole appunto descrivo che non basta neanche una canzone per parlare dell'amore, dei sogni e dei ricordi che ho avuto io con questa lei. Sì. Alla fine io penso che le persone siano accomunate da esperienze simili, quindi mi farebbe felice che comunque qualcuno si potesse ritrovare in queste parole, e io gli ho dato semplicemente la voce per esprimere tutto questo. Certo, ecco. Ti chiedo questo perché appunto, lo dico sempre, mi riallaccio un po' al titolo del mio programma che si chiama Rock Wave Live, live perché le persone vengono in diretta o telefonica qui in studio, ma si chiama anche il sottotitolo Io mi racconto, perché cioè, qui si viene e si racconta un po', si deve raccontare la propria canzone, la si racconta a modo proprio, come hai fatto tu adesso. Allora Mattia, io direi di ascoltare la tua canzone. Ti propongo Mattia Di Bernardo con Neanche una canzone. Radio Cooperativa. Sai che scriverti non è la cosa più semplice. E mentre compongo i pezzi, manca uno, manchi te. Sai che scriverti non è la cosa più facile, perché quando c'eri te, tutto aveva un altro aspetto. E non ci basta più neanche una canzone a ricordarci tutti i nostri sogni, a raccontarti le mie sicurezze. Che perfetta lo sei stata sempre, io di perfetto non ho proprio niente. Ma se qualcosa di buono in questa vita ho donato, e se l'ho fatto è grazie a te. Sai che perderti non è la cosa più semplice. E anche se non ci penso, in ogni cosa manchi te. Sai che perderti non è, no, non è la cosa più facile, perché quando c'eri te non serviva niente. E adesso invece non basta neanche una canzone a ricordarci tutti i nostri sogni, a raccontarti le mie insicurezze. Finché non torni tu, perché fa freddo e niente più lo stesso qui. Tu che perfetta lo sei stata sempre, perfetto non ho proprio niente. Ma se qualcosa di buono in questa vita ho donato, e se l'ho fatto è grazie a te. Scusa, ma volevo dirti quanto sei importante e quante volte sono stato bene insieme a te. Per il perdono ad ogni errore, per le notti senza fine, e se ho capito un po' l'amore, ma non ci basta più neanche una canzone. Oh, oh, oh, oh. Ah, e perfetta lo sei stata sempre. Io di perfetto non ho proprio niente, ma se qualcosa di buono in questa vita ho donato e se l'ho fatto è grazie a te. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Allora Mattia, io direi proprio un'anima pop questa canzone. Sì, esattamente, proprio pop, sì. Giustissimo, è vero. Infatti le mie influenze sono state fin da piccolino Tiziano Ferro, Tiro Mancino, quindi ho avuto molte delle loro influenze, diciamo. Meraviglioso, stanno facendo benissimo i Tiro Mancino in questi ultimi periodi. È verissimo. Volevo chiederti una cosa, che effetto ti fa sentire il tuo primo inedito trasmesso per radio? Ah, è un'emozione fantastica, la prima volta che l'ho sentita in radio, parlo della prima volta adesso perché mi è rimasto la prima volta, le prime due volte sono le momenti che più ti rimangono, no? Ero da solo a casa e l'ho ascoltata e sono rimasto in silenzio per 3 minuti e poi ho pensato, dai, non è male. Dimmi una cosa, chi ha collaborato nella realizzazione di questa canzone? Allora, io l'ho composto da solo, fatto da solo. È una mia, proprio il testo, la partitura, la melodia, l'ho fatta io. È un mio lavoro. Quindi è tutta opera tua? Musica, tutto arrangiamento, mia, sì. Testo, è tutto. È tutto mio, sì. Possiamo definirti... Ho messo diverso tempo a farla. Come, scusa? Possiamo definirti un cantautore, allora? Diciamo. Sicuramente fino sì. Fino a prova contraria, lo so. Allora, ci sarà qualche cosa di importante nel prossimo futuro? Cioè, hai fatto questo, c'è una lunga pausa oppure stai preparando qualcosa? No, attualmente sto già lavorando alla realizzazione degli altri inediti che ho e spero presto comunque di far uscire il mio album. Ci vorrà ancora un pochettino di tempo, ma non sarà lungo. Sarà, secondo me, una pausa giusta per poter uscire più brani e con un album. Quindi un album che seguirà sempre la linea pop o cambierà qualcosa? No, sempre pop. Sempre pop. Sì, avrà questa linea, bene o male. Di quanti brani sarà composto? Hai già un'idea? Allora, sicuramente più di 8. Uh-huh. 8-10, dovrebbero essere 8-10. Sì. E poi sai, bisogna vedere anche nel corso di questi mesi, però sicuramente 10. Ecco. Spero di averti qua in studio magari per presentare il nuovo CD anziché con una telefonica. Sì, certo, infatti mi auguro presto di poterlo realizzare e di essere lì in studio da voi. Sarebbe una bellissima cosa, un'esperienza mi per auguro. Me meravigliosa. Mi auguro, noi ti ospitiamo più che volentieri, Mattia. Ho scoperto che tu tra l'altro sei anche docente di canto. Sì, esatto. Qui da noi è passato anche la settimana scorsa a Dino Vighesso, che anche lui è un docente di canto. Ce ne parli un attimo di questa tua esperienza? Sì, io sono stato prima alunno dell'Accademia Arminese delle Arti, Musica e Spettacolo e poi dopo tanti anni di studio mi sono diplomato lì privatamente e ho avuto la possibilità, grazie al direttore Luciano Sampaoli, di insegnare. È una bellissima esperienza perché comunque ti ritrovi dall'altra parte della cattedra un po' più grande, del banco più grande, e penso che ci voglia comunque una sensibilità particolare per insegnare agli altri, perché comunque ogni persona è diversa, quindi bisogna, come dire, andare, essere sensibile e capire come curarli senza magari farli stare male, senza distruggere anche le loro ambizioni, che alla fine sono anche le mie, quella appunto di diventare un cantante professionista, quindi li capisco appieno. Quindi sei severissimo nei tuoi confronti. Sì, sì, ci provo più che posso. Hai delle persone che ci tengono in particolar modo a questo tuo progetto? Chi ti sostiene in particolar modo su questo progetto? Guarda, fortunatamente tutte le persone che ho incontrato, la mia famiglia, i miei amici, credono molto in questa cosa. quindi fortunatamente diciamo che il primo a credere a un sogno devo essere io, no? Sì. Però anche quando tutti gli altri ti confermano, ti danno delle sicurezze in più, ti dicono che il brano è bello, anche persone magari che hai visto per la prima volta e iniziano a seguirti, a scriverti, sono segnali comunque che ti danno quel pizzico di coraggio in più per continuare, certo. Che non fa mai male, no? Che ci vuole sempre. Sai una cosa, Mattia, io vi sento la fortuna di sentire tantissimi di voi giovani parlare di musica, ma soprattutto sento parlare di vostri sogni. E non è vero che, non penso sia così vero che tutti pensate ad arrivare a un talent, perché vi sento così decisi nel continuare comunque e sempre, nonostante le difficoltà, di stare vicino e continuare con la vostra musica. Se poi arriverà qualcosa, bene, ma non è il pensiero principale, quello dei talent. No, infatti non lo è. Diciamo che comunque sì, c'è anche quella strada adesso, no? Certo, come certo. Oggi. Sì. E sicuramente secondo me uno, io come tutti gli altri artisti, più possibilità ci diamo, sicuramente più possibilità abbiamo di arrivare o comunque di iniziare a intraprendere quel percorso, quel sogno. Però non è uno, secondo me, non deve pensare solamente al talent, perché ci sono tantissime realtà. Può passare in radio, come sto facendo io e tanti altri artisti, può fare l'artista di strada, proporsi lì, può diventare un insegnante, può cantare in un locale, ci sono tantissime realtà oggi come oggi per poter vivere di musica, certo. Basta solamente scegliere, secondo me. Mattia, siamo in chiusura, io avremo modo poi comunque, come dicevamo prima, di averti qui, spero, in studio, e quindi poterti ospitare, darti maggior spazio possibile alla presentazione del tuo CD. Vogliamo dire dove si può trovare Neanche una canzone? Certo, allora, il mio brano Neanche una canzone si trova online su Spotify e iTunes. Poi volendo c'è anche il video su YouTube, non c'è proprio il video, ci sono io con un fermo immagine, però c'è anche la canzone lì. Per chi mi volesse ascoltare, Mattia Di Bernardo, Neanche una canzone. Alla fine però dobbiamo fare anche un ringraziamento, almeno da parte mia, non da parte tua è quasi scontato, da parte mia volevo ringraziare Andrea Rinaldi, che sì. Ti segue, è una persona squisita, disponibilissima. Sì, è vero, è una persona molto, veramente squisita, brava Andrea, e sì, è molto bravo davvero, è sempre comunque, metaforicamente parlando, sempre a braccetto con me per sostenermi e spingermi. Quindi sono contento di lavorare con lui, sì. Io dopo i saluti, come ho detto prima, rilancio nuovamente la tua canzone. Io te la faccio annunciare a te, così ti lascio questo onore, ok? Io spero di risentirti presto, quindi qui mi raccomando, aggiornami, i contatti li abbiamo. Aggiornami sui tuoi passi, sulle tue novità, che sicuramente durante il programma, bene o male, anche se non è pronto ancora il tuo CD, parlerò di Mattia Di Bernardo, ok? Certo, al più presto, grazie, grazie mille. Grazie a te, Mattia, vai, presentati pure il tuo brano che io lo mando in onda. Mattia Di Bernardo, Neanche una canzone su Radio Cooperativa. Ciao, un salutone, un abbraccio. Ciao, grazie. Radio Cooperativa. Sai che scriverti non è la cosa più semplice. E mentre compongo i pezzi, manca uno, manchi te. Sai che scriverti non è la cosa più facile, perché quando c'eri te tutto aveva un altro aspetto e non ci basta più neanche una canzone a ricordarci tutti i nostri sogni, a raccontarti le mie insicurezze. Che perfetta lo sei stata sempre. Io di perfetto non ho proprio niente. Ma se qualcosa di buono in questa vita ho donato, e se l'ho fatto è grazie a te. Sai che perderti non è la cosa più semplice. E anche se non ci penso, in ogni cosa manchi te. sai che perderti non è, no, non è la cosa più facile, perché quando c'eri te non serviva niente. E adesso invece non basta neanche una canzone a ricordarci tutti i nostri sogni, a raccontarti le mie insicurezze. Che perfetta non sei stata sempre, io di perfetto non ho proprio niente, ma se qualcosa di buono in questa vita ho donato, e se l'ho fatto è grazie a te. Scusa ma volevo dirti quanto sei importante, e quante volte sono stato bene insieme a te. Per il perdono ad ogni errore, per le notti senza fine, e se ho capito un po' l'amore, grazie a te, grazie a te. Ma non ci basta più neanche una canzone. Perfetta non sei stata sempre, io di perfetto non ho proprio niente, ma se qualcosa di buono in questa vita ho donato, e se l'ho fatto è grazie a te. Rockwave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Allora, ritorniamo al nostro live. Allora, vi dicevo in poc'anzi, in apertura di programma, che avrei avuto in diretta una band con, adesso ne parleremo, una band che suona veramente bene e dà una voce femminile veramente fantastica. Do il benvenuto alle Biciclette Volanti, dico bene? Sì, ciao a tutti, buonasera. Oh, Sara, pensavo, ero convinto che fosse Stefano al telefono. Ciao, Sara. Ciao, sono qua. Ciao, Stefano. E benvenuti a entrambi qui a Rockwave Live. Grazie. Ecco, allora diciamo subito che il gruppo è fatto da 5 componenti, ma questa sera ne abbiamo solo 2. Abbiamo Stefano Morroni e appunto Sara Magnamassa. Esatto. Che sono rispettivamente Stefano e sei chitarrista, vero Stefano? Sì. Ecco. Mentre Sara è la splendida voce, gli ho dato un termine che adesso mi sfugge, elegante, questo è il termine che mi è venuto in mente quando ho sentito la tua voce. Grazie. Allora, diciamo, dite voi o dico io chi sono gli altri componenti del gruppo? Vai, dico io. Allora, al basso Matteo Volatili, alla batteria Luca Magnamassa e alle tastiere Riccardo Trotto. Ecco. E mi dite anche la media d'età, cos'è, 22, 23 anni circa? Sì, i più piccoli 21 anni e i più grandi 29. Allora, cominciamo un po' a conoscere il vostro gruppo, cosa dite? Diciamo da dove venite, da dove siete? Veniamo da Monte San Giusto, che è un paese in provincia di Macerata, quindi dalle Marche. Sì, e quindi ecco il perché in pratica con loro abbiamo fatto una telefonica, perché era abbastanza complicato, almeno che non fosse proprio magari per un concerto qui nei dintorni, ma era abbastanza complicato farli venire qui a Padova. Io vi ho conosciuto, curiosando un po', perché sono sempre un po' alla ricerca di queste nuove proposte, tramite un video che si chiama Chaos, che in pratica è il vostro ultimo inedito, giusto? Sì, esatto, è il nostro ultimo lavoro. Ecco, e ho anche il primo di un nuovo progetto. Certo, che ne parleremo adesso a mano, ne parleremo un po' del vostro cammino, perché sarà un'intervista un po' più lunga rispetto a Mattia, anche perché avete più cose per fortuna da condividere, per fortuna nel senso che avete già un CD alle spalle. Ci sono delle musiche, come dicevo prima, che sono veramente belle, però Sara, quello che mi ha colpito subito è stata la tua voce, questa voce elegante che deve essere anche supportata dalle buone sonorità, perché altrimenti logicamente non viene esaltata, però ti devo fare i complimenti per la tua voce. Grazie, grazie. Ascolta Sara, ma cioè, dai delle indicazioni tu per esaltare questa voce, oppure il gruppo si adegua un po' al tuo modo di cantare e ti crea la musica attorno? Come funziona? Ma in realtà viene un po' da entrambe le parti. E sicuramente agli inizi comunque ci dovevamo ancora conoscere, quindi dovevamo ancora trovare una identità e loro comunque dovevano anche conoscere magari la mia vocalità. Poi però piano piano ci siamo amalgamati e sotto questo aspetto comunque abbiamo lavorato insieme, quindi è un lavoro di gruppo molto bello. Certo, ma visto che ti ho al telefono ti faccio un paio di domande subito a te Sara. Allora, dovete sapere che Sara è l'unica figura femminile con quattro maschi intorno. Come ci si muove all'interno, Sara? Ma in realtà per me sono come una famiglia. Diciamo che, vabbè, c'è anche mio fratello, quindi che è il batterista. Però comunque mi trovo benissimo. Loro con me sono carini, scherziamo e ci divertiamo un sacco. Cosa significa per te cantare, Sara? Cantare è esprimersi totalmente, in qualche modo è mettersi a nudo, quindi tirar fuori tutto quello che si ha da dire, che si ha dentro, e forse delle volte anche io la considero la parte più bella di me. Viene fuori magari una Sara quando canto che non è magari la Sara che si incontra, diciamo, tutti i giorni. Quindi è una bella possibilità di esprimersi anche in modo diverso da quello che si è magari tutti i giorni. Certo. Tu tra l'altro sei laureata in scienze dell'educazione, giusto? Com'è questa, una curiosità, com'è questa facoltà? Perché la vedo molto in difficoltà o mi sbaglio? Allora, è una bellissima facoltà. Sicuramente l'ambito dell'educazione è un ambito che viene sempre più richiesto, soprattutto al giorno d'oggi. E quindi con i ragazzi, con i vari disabili anche della società, però è una bella sfida, la definirei così. Certo. Ogni gruppo ha una sua storia nel suo nome, il vostro qual è? Allora, Biciclette Volanti è nato per uno sbaglio grossissimo. Infatti all'inizio, quando facevamo le prove, le facevamo all'interno di un garage. E da fuori, da questo garage, noi abbiamo visto passare una macchina con sopra una bicicletta. Sì. Siccome stavamo lì a pensare a questo nome, perché a breve avremmo avuto una serata, è passata questa bicicletta e da dentro questo garage si è visto soltanto la bicicletta, e quindi lì abbiamo scherzato, abbiamo detto: ma tra i vari nomi possiamo chiamarci Biciclette Volanti, dato che ci siamo. E abbiamo raccontato questo episodio agli organizzatori della serata, ed è venuta fuori, spiegandogli che comunque ancora non avevamo un nome, invece lo hanno preso sul serio questa cosa e ci hanno messo come Biciclette Volanti. Ecco, l'avrete chissà raccontato quante volte, perché è un nome un po' strano, però d'altronde molti ascoltatori non vi conoscono magari e hanno voglia di sapere, sono curiosi di sapere come mai Biciclette Volanti, perché appunto è un po', sì, è un po' strano. Ma poi noi all'inizio ci vergognavamo anche di questo nome, perché magari sai, le persone certo, confrontandosi anche con altre band che avevano nomi grandissimi, no? Tutti un po' in inglese, certo. Ci venivano lì a dire: ah, voi Biciclette Volanti, ma poi comunque certo, la serata andò bene e noi ci siamo affezionati a questo nome. Te pensa Sara che tra poco avrò ospite anche un gruppo che si chiama Cinque Uomini sulla Cassa del Morto. Però sembra un nome strano, però poi alla fine quando vai a capire perché c'è un motivo, poi alla fine non è così lugubre, sembra, ma è curioso, ma non lo è. Va bene, ascoltiamoci intanto Caos, ok ragazzi? Ok. Al confine con altri giorni, chissà che stella avrà. Sopra tetti confusi, forse non ha capito che perderemo la pelle. Ancora non so spiegar perché l'adoriamo così. C'è un rumore nel caos, al confine coi sogni. C'è un rumore nel caos, al confine con te. Crolla questa città fatta di sabbia, quanta fragilità, dietro sguardi sicuri, forse non ha capito che stiamo vivendo un errore. Bellissima, bellissima veramente, ragazzi. Comunque dopo parleremo anche di queste sonorità. Intanto vi chiedo, partiamo un po' dalla vostra storia, dal 2012. A un certo punto nasce proprio in quell'anno, no, il vostro gruppo? Sì, esatto. Ci siamo conosciuti nella scuola di musica dove comunque studiavamo. E diciamo, i nostri insegnanti ci hanno proposto di formare un gruppo e così da lì abbiamo iniziato la nostra avventura. Inizialmente abbiamo iniziato provando a suonare delle cover e è stato anche un po' difficile all'inizio trovare la cover giusta, perché comunque venivamo tutti da generi molto diversi, chi dal pop, chi dal punk, chi dal metal addirittura, quindi è stato un attimo un ritrovarsi, ma anche un bellissimo scambio di musica che comunque ha fatto crescere tutto il gruppo. Magari anziché distaccarsi o creare conflitti, ci ha unito ancora di più, perché ognuno ha preso parte al mondo dell'altro e è stato veramente bello questo. Certo. Poi da lì abbiamo iniziato anche a proporre degli inediti e poi abbiamo comunque girato con le serate live. Nel 2013, no? Il primo inedito, con chissà sì, se... Esatto. Poi dopo è proseguito con Sono un angelo, che anche questo sta su YouTube con il video, e poi da lì siamo sempre più cresciuti fino a nel 2017 è uscito In questo mondo di matti, sì, che è il nostro primo disco con tutti gli inediti e quindi con tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Certo, che però... è stato un bellissimo traguardo. Però tra appunto la parte che subito dopo un anno avete subito creato un inedito, vuol dire che già eravate convinti un po' delle vostre possibilità, però nel frattempo, prima del 2017, avete vinto un concorso importante per la Universal. Diciamo anche cos'è questo concorso della Universal. Sì, era un concorso che riguardava degli... era contro la pirateria, quindi contro il lo scaricare i film da internet illegalmente. E noi abbiamo proposto un video con una canzone che dovevamo riprendere da uno dei film. In quell'anno era uscito Cattivissimo Me, quindi abbiamo preso la canzone di Pharrell Williams, Happy. Sì. L'abbiamo riproposta con un video e diciamo che da una votazione siamo riusciti a vincere. E poi appunto, come dicevi prima Sara, arriviamo al 2017, che è un anno importante perché è un anno di cambiamento e svolta musicale, perché succedono tantissime cose, no? E appunto viene pubblicato questo 31 marzo 2017, viene pubblicato questo CD. Ci racconti qualcosa in linea generale? Sì, allora questo CD lo abbiamo registrato da Emanuele Pesaresi nel suo studio e poi siamo riusciti a proporlo grazie alla Lotus Music, che ha promosso il nostro lavoro, e da lì abbiamo comunque iniziato anche a spostarci in Emilia Romagna e quindi a suonare anche fuori magari dalle Marche. Poi nel 2017, sempre in quell'anno, abbiamo anche un po' cambiato sonorità e genere. Ci sono stati dei cambiamenti perché il CD In questo mondo di matti vede presente anche un'altra voce femminile, quella di Elena Agostinelli, sì, che saluto che ci sta ascoltando, che ha cantato con me per 5 anni. Poi comunque, vabbè, ogni strada, ognuno diciamo fa le sue scelte e decide se proseguire o meno. Certo, scusami, ti faccio una parentesi Sara, perché sì, se sta ascoltando volevo salutarla Elena, perché fatalità, sempre curiosando un po', ho visto il primo video ed è stato proprio il mio primo contatto che poi mi ha messo in contatto con voi. Ciao Elena, grazie. E niente, poi dopo abbiamo anche un po' cambiato sonorità perché Riccardo Trozzo prima suonava la chitarra, poi si è appassionato al mondo della tastiera e quindi ha scoperto un altro pianeta, come si suol dire. E da lì abbiamo iniziato anche un po' a cambiare genere e anche qui ci siamo aperti in un nuovo mondo e comunque sperimentando sempre nuove sonorità. E questo pure è comunque una crescita. Certo. Allora Sara, io direi di passare al prossimo brano, che si chiama Ciò che vale. Cosa ci racconti di questa canzone? Allora, Ciò che vale è una canzone che è stata scritta da Stefano e che l'abbiamo proposta nel nostro CD In questo mondo di matti. Poi l'abbiamo rivisitata e con il nuovo sound che appunto era venuto fuori in quel periodo e quindi l'abbiamo riproposta sotto un altro aspetto. Allora ascoltiamoci Ciò che vale dei Biciclette Volanti. Anche il cuore trova il suo tempo, senza un perché, non trattengo e non lo trattengo. E tu sei lì, sempre più allegra e più vivace. Siamo io e te, riflessi in un mondo diverso. Chissà se in tutto quel sorriso, la gioia del tuo dolce viso, riesce a sollevare. Più grandi amori mi attende e mi sorprende. Dove sei tu? Dove sei tu? Rockwave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Allora, io l'invito che vi faccio è di andare a vedere questi video di questo gruppo, Biciclette Volanti. Hanno un canale YouTube, basta cliccare, scrivere, digitare Biciclette Volanti su YouTube e vi viene fuori il loro canale. Anche perché voi dovete, io stavo sorridendo prima quando stavo ascoltando la canzone interpretata da Sara. Mi sorridevo perché dietro a questa voce così un po' bassa, che sembra timida, ma in realtà poi canta con una grinta che è veramente trascinante, no Sara? Grazie, è quel dualismo che dicevo prima comunque. Esattamente, esattamente. Allora, poi c'è anche un altro concorso che avete partecipato importante nel 2017, che è Castrocaro, ne vogliamo un po' parlare Sara? Sì, allora abbiamo partecipato a Castrocaro e è stata una bellissima esperienza perché è stata anche una giornata di formazione nella quale abbiamo incontrato produttori e discografici che ci hanno un po' raccontato il loro mondo e ci siamo anche confrontati con altre realtà musicali, quindi di altri artisti. È stata una bellissima esperienza anche esibirsi e arrivare diciamo al punto in cui siamo arrivati, anche se comunque non siamo andati avanti, però sempre un'esperienza formativa molto bella. Importante, certo, certo. Senti, ogni gruppo ha l'esigenza, cioè più che gruppo, ogni persona ha l'esigenza di esprimere un po' la propria creatività musicale, no? Cioè uno come prima, ad esempio Mattia Di Bernardo, lui è da solo, fa il suo testo, il suo arrangiamento, la sua musica. E voi come gruppo, cioè, ci sono delle difficoltà? Vi trovate subito in sintonia? Allora, perlomeno noi ci troviamo subito in sintonia, perché magari parte la proposta di una nuova canzone da parte di uno di noi e poi tutti insieme si cerca di svilupparla. Poi dopo si valuta anche se sta diciamo venendo fuori un bel lavoro oppure no, quindi da lì si valuta, però c'è molta collaborazione in questo e magari non c'è soltanto una persona che scrive le canzoni, soltanto una persona che magari si occupa del proprio strumento, c'è sempre un confronto. Quindi quando Riccardo è diventato da un chitarrista, cioè da chitarrista è passato a tastierista e ha portato queste nuove sonorità, lì vi siete trovati un po' tutti d'accordo perché vi siete accorti che la cosa funzionava. Sì, ma comunque c'era anche la curiosità, no, di sperimentare cose nuove per vedere l'effetto che comunque faceva. No, ci siamo trovati sempre abbastanza d'accordo, siamo anche molto amici tra noi. e riusciamo comunque a confrontarci, a chiarire le cose che comunque sono da chiarire, e quindi a superare gli ostacoli e ad andare avanti. Certo. E questa è sempre una bellissima cosa. Certo. Io penso che sentiremo parlare un po' di voi un po' più avanti, al giusto momento, ma ne sentiremo parlare. Beh, siete un bel gruppo, fate della bella musica e tu canti bene. Grazie, sempre. Grazie. E corriamo un po' perché andiamo a recuperare un po' il tempo perduto. La prossima canzone è Cambio Prospettiva. Cosa mi dici questa canzone, Sara? Allora, Cambio Prospettiva, per assurdo, è stata la prima canzone che noi abbiamo provato a scrivere prima di Chissà Se. Poi l'abbiamo lasciata lì perché perlomeno io con il testo non riuscivo ad andare avanti. E dopo tanti anni, nel 2014 se non sbaglio, ci abbiamo rimesso mano, l'abbiamo ripresa e siamo riusciti a concluderla. E magari anche grazie alle esperienze che comunque abbiamo avuto tra una canzone e l'altra, diciamo, abbiamo sbloccato quella canzone e è stata, diciamo, quella che ha lanciato il nostro CD, cioè In Questo Mondo di Matti. Allora ascoltiamoci Cambio Prospettiva, Le Biciclette Volanti. Radio Cooperativa. Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Chiedo conferma, Sara, sei sempre qui, vero? Sì, ci sono. Allora, veramente pura anima rock in questa canzone, però voi veramente andate a abbracciare pop, rock, musica elettronica. Abbracciate un po' tutto questo, mi sbaglio, Sara? Sì, esatto. Questo comunque faceva parte anche del vecchio progetto che appunto a forse mescolare il pop, il rock. E, mentre invece adesso stiamo lavorando su un nuovo progetto che punta, che si definisce di più pop, però chiaramente sperimentare sempre e conoscere un genere diverso arricchisce in qualche modo. Certo, quindi tu mi stai dicendo che dal 31 marzo 2017 ad oggi è passato circa un anno e mezzo, quindi c'è un programma molto presto o qualcosa di nuovo allora, Sara? Sì, esatto, abbiamo pronte nuove canzoni che appunto sulle quali stiamo lavorando e speriamo di esibirle live presto e di poter lavorare in studio e per poterle promuovere. Certo. Sempre con prettamente rock oppure, come abbiamo sentito adesso, andate a abbracciare pop e rock? Andiamo più sul pop questa volta. Più sul pop e molta musica elettronica allora, visto che vi state spingendo un pochino verso quella direzione. Risponde Stefano adesso, eh? Sì, sono stato io. È perché non ho parlato mai, almeno mai. No. E il microfono è di Sara, è la... È lei che è la protagonista del gruppo e quindi dice sì, faccio certo. Tutto io. Sì. Quando riguarda il genere, diciamo, è sul pop, magari sì, adesso dopo dipende dal brano ovviamente, ma comunque dei riferimenti rock magari ci saranno poi, diciamo, su questi che abbiamo fatto, che usciranno magari a breve, non so quando in realtà, ma sono più sul pop. Poi dopo più là abbiamo altre cose a cui stiamo lavorando che magari avranno anche un po' di rock, non lo so in realtà, perché comunque è molto, facciamo molto come sentiamo la canzone. Certo. Ovviamente però sì, l'elettronica e quant'altro sarà molto presente come lo è stato certo. Con Caos. State ancora sperimentando, anche se avete le idee abbastanza chiare, però diciamo che state ancora sperimentando sì, un po' di sonorità. Sì, sì. Sì, esatto. Diciamo ci stiamo molto muovendo a singoli, quindi anche questo ci permette un po' di sperimentare di più anche sui suoni, che poi però senza magari perdere quel filo che abbiamo deciso di promuovere adesso. Certo. Dove potranno ascoltarvi al di là dei CD in internet, cioè dove possono ascoltarvi prossimamente dal vivo? Avete in programma qualche live? Allora noi stiamo per il momento live no, ma stiamo partecipando a un concorso dove abbiamo saputo appunto questi giorni che siamo passati alle semifinali Tour Music Fest, suoneremo settimana prossima a Roma e proprio per questo concorso, però di live proprio ancora non abbiamo niente in programma. Allora ragazzi, c'è una canzone che si chiama Equilibrio Instabile, che è la prossima che andiamo ad ascoltare, che è abbastanza semplice come canzone, però prevalentemente in acustico. Però io la trovo bellissima anche perché secondo me esalta molto le qualità di Sara. Non so se voi siete d'accordo, magari amate più la musica un po' più rockeggiante, però secondo me qui avete trovato una buona musicalità, che è quello che parlavo prima, di sapere anche costruire un po' della musica attorno a Sara per esaltare la sua voce. Ad esempio, appunto, Equilibrio Instabile è il suo caso. Sei d'accordo, Stefano? Sì, sì, sì. Diciamo che tra tutte le canzoni del disco è stata una delle ultime che abbiamo fatto, quindi diciamo anche questa canzone qui è, rispetto alle prime, magari è un po' cambiata già da struttura a sound, quindi già questa diciamo fa tramite a quello che facciamo adesso, insomma. Ecco. Bene, io ho il tempo che corre perché ho ancora pochissimi minuti, poi devo passare il programma, i cursori al collega. Allora intanto, prima di ascoltare l'ultima canzone, che è appunto Caos, ascoltiamoci intanto Equilibrio Instabile. Eccoci ragazzi, siamo ormai verso la chiusura. Allora Sara, che dici di questa canzone? Stavo proprio dicendo a Stefano che Equilibrio Instabile per me è, cioè, sono io, è la mia canzone che ho scritto e mi emoziona ogni volta e mi fa molto piacere che tu l'abbia così presentata in questo modo, perché sono veramente contenta che io sia riuscita a trasmettere questo messaggio. Sì, è così, perché questo che, cioè, la musica è, lo sai benissimo, sono emozioni, c'è qualcuna che ti prende di più o meno, qualcuna che è orecchiabile, che è bellissima ascoltare, ma ci sono canzoni che ti prendono e ti portano dentro, ecco, Equilibrio Instabile è una di queste canzoni. Esatto. Allora ragazzi, siamo in chiusura, io volevo, come ho detto prima, ho aperto con Caos e chiudiamo con Caos e gli dedichiamo un minuto prima della chiusura. Allora, pensate che in 6 mesi, l'avete da 6 mesi circa che è pubblicata in YouTube, no? Se non mi sbaglio, ragazzi. Sì, da marzo. Ecco. Da aprile. Ecco. Avete raggiunto, penso, non so se l'avete visto, però ci sono 23.000 visualizzazioni. Sì. E non sono poche, vuol dire che il brano piace. E vi aspettavate di raggiungere in così poco tempo così tante visualizzazioni? Oddio, io non lo so, nel senso non ho fatto tante aspettative di questo, però comunque siamo felici. Che comunque sia piaciuto adesso, logicamente poi sai, come gruppo sai, quando poi fai una canzone, diciamo, poi dopo noi sappiamo che ci sono tante altre, quindi poi dopo già cominci a pensare a qualcosa di nuovo e quindi sì, poi comunque per quanto riguarda le distribuzioni ci ha fatto molto piacere. Anche perché, come detto te, insomma, è simbolo che magari la canzone ha funzionato in qualche modo, è andata come speravamo che andasse. Una dedica particolare a qualcuno che volete fare, ragazzi, nell'ambito musicale oppure nel vostro entourage che vi ha supportato, che vi ha aiutato? Beh, sicuramente ringraziamo il Naive Studio di Fano che ci ha aiutato, ha mixato questa canzone Caos. Poi Alessandro Moglie che ha realizzato il video della canzone, quindi è venuto con noi fino a Milano per girare il video, e la Lotus Music di San Marino che ha creduto in noi e ci ha supportato in questo viaggio, in questo percorso. Bene. Sara, io cosa vi devo dire? Anche Stefano, vi ringrazio entrambi, siete stati gentilissimi, disponibilissimi. Io spero di avervi presto qui in studio con il prossimo CD. Difficile da Macerata, ma magari chissà mai, se siete passaggio di qui, ci troviamo qui in studio. Ok? Ma sì, in modo ci organizziamo e ci fa assolutamente piacere. Okay. Va bene, grazie mille. Ok, ragazzi, vi dico così, vi auguro un buon viaggio, ok? Sì, grazie. Radio Cooperativa. Giorni, chissà che stella avrà, sopra tetti confusi, forse non ha capito che perderemo la pelle, ancora non so spiegar perché l'adoriamo così. C'è un rumore nel caos.